Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Che cosa mai potranno avere in comune l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e la Regione Marche? Beh, sembrerà paradossale, ma i due enti, che sono lontanissimi da tutti i punti di vista, hanno problematiche di calcolo non molto diverse. L'INFN ha il problema di fare i calcoli relativi agli eventi nucleari che si producono all'interno dell'LHC, l'acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, dove recentemente è stato scoperto il bosone di Higgs. La regione Marche, e come lei tutte le altre regioni italiane e lo Stato anche, hanno invece il problema di dover gestire enormi quantitativi di dati legati questa volta ai propri amministrati, ai propri cittadini, per esempio tutte le cartelle sanitarie, ma si potrebbero fare altri mille esempi legati alla burocrazia. Ebbene, questa sera allora vi parleremo di un progetto col quale si punta a mettere a disposizione della pubblica amministrazione della regione Marche che il know-how sviluppato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Responsabile di questo progetto è Gianmario Bilei, ricercatore dell'INFN, che è stato intervistato dalla nostra Chiara Albicocco. Sentiamo. Questo è uno degli esempi nel quale, diciamo, l'INFN sta trasferendo alla pubblica amministrazione, fattispecie alla Regione Marche, diciamo, delle proprie competenze in ambito appunto di cloud computing o grid. Ecco, per chi, scusi, non sapesse cos'è la cloud, adesso noi se ne sente parlare molto, quindi è quasi un termine diventato di uso comune. Comunque, cloud, che significa nuvole in inglese. Beh, dunque, innanzitutto questi esperimenti al CERN e all'HC, al quale anche l'INFN collabora da molti anni, hanno fatto sì essenzialmente di mettere a punto delle tecnologie innovative per analizzare questa mole enorme di dati che vengono prodotti a questi esperimenti all'HC. Allora, la cloud, essenzialmente abbiamo una serie di computer, diciamo, in un data center. La capacità della cloud permette ad un utente esterno di utilizzare in maniera molto dinamica, quindi utilizzare sia spazio disco a seconda delle necessità, sia calcolo, quindi essenzialmente si può acquistare dal data center dello spazio disco e della capacità di calcolo, così come si acquista energia elettrica o gas dalle nostre Enel o altre agenzie. Secondo le nostre necessità, un'azienda o un privato, insomma, uno potrebbe avere bisogno solo in momenti molto precisi di una enorme capacità di calcolo, quindi non deve comprarsi un grande data center per il suo uso, ma affittare questa capacità di calcolo esterno. Di chi ce l'ha già, certo. L'aver messo appunto queste tecnologie appunto di griglia, quindi, diciamo, il distribuire dati nel mondo su centinaia di data center con migliaia e migliaia di PC, ci ha permesso oggi di appunto maturare delle competenze che potremmo, direi, reimpiegare, diciamo, in altri ambiti, come appunto la pubblica amministrazione. Insomma, al CERN è nato internet, e quindi non ci stupisce che l'INFN sia tecnologicamente avanzato da questo punto di vista. E quindi che cosa avete pensato? Di fornire questa preparazione per gestire che cosa? Questo è un progetto che inizialmente è nato con un'ambizione importante, essenzialmente cercare di realizzare in un data center regionale, quindi in questo momento il data center è nella regione Marche ed esiste, quindi realizzare quindi una cloud che sulla quale uno possa costruire diversi servizi per i comuni, servizi per i cittadini, per le imprese, servizi per la sanità regionale. Che cosa state sperimentando? Perché qualcosa avete già fatto, avete già realizzato. Sì, esatto. Questo progetto è nato dal punto di vista esecutivo nel luglio dell'anno scorso, quindi, diciamo, con i nostri colleghi universitari e in collaborazione con la Regione abbiamo definito un obiettivo molto preciso: la realizzazione di un'infrastruttura pilota cloud e di un servizio pilota. Quindi abbiamo nei mesi scorsi rilasciato il primo servizio pilota, che è un servizio di refertazione di analisi. Quindi di analisi sanitarie. Essenzialmente un cittadino nelle Marche può andare in una fare delle analisi e lui ottiene indietro un codice, e sia tramite un telefonino o web, un PC o addirittura anche una Smart TV, può accedere alla cloud e scaricare in maniera del tutto anonima i suoi risultati di analisi, perché non c'è scritto il suo nome, questo è importante per la privacy, ma c'è scritto semplicemente un identificativo. Quindi questo è il primo servizio che stiamo sperimentando in questi giorni. Ecco, quale potenzialità, diciamo, che diventano infinite? Sì, abbiamo diverse community, come chiamiamo, ci piace chiamare, che potranno usufruire di questa cloud, dalle scuole alla community della sanità, diciamo farmacie, medici di famiglia che potranno accedere all'informazione a cloud, ai comuni stessi, ai cittadini, alle imprese e anche stiamo pensando protezione civile. Credo che sia un aspetto alla quale deve essere molto sensibili, la possibilità di avere nel territorio distribuiti dei sensori di allarmistica per monitorare il territorio. Esatto, per monitorare il territorio. Quindi, diciamo, sì. E quindi mi scusi, con questi sensori che monitorano il territorio in tempo reale, se dovesse esserci qualcosa che non va, subito il sensore rimanda, come dire, il dato di allerta alla centrale e via, non so, SMS per esempio, o arriva il messaggio, l'allarme, tra virgolette, al cittadino. L'importante è raccogliere informazioni in tempo reale. In questo momento, ecco, la protezione civile raccoglie informazioni sì attraverso sensori, però c'è un'analisi, ci sono persone dietro che analizzano queste informazioni, si chiama il 112, si chiama, certo, la protezione civile, sì, tutto sì, viaggia sì, in maniera abbastanza telefonica e quindi con dei ritardi. L'idea è di avere un sistema di monitoring del territorio che possa agire in tempi più rapidi. Va bene, grazie Bilei. Insomma, l'istituto è nazionale, quindi speriamo che altre regioni guardino con favore questo modello che state creando e si possa estendere anche nelle altre regioni. Io credo di sì, credo che sia stata molto importante la lungimiranza della Regione Marche, che è stata molto sensibile a questo approccio e ci ha creduto, ci crede ancora e ha definito questo come davvero un progetto strategico per la Regione. È uno dei progetti strategici ed è anche la base dello sviluppo del prossimo FESR, il programma di sviluppo regionale europeo. Credo che le regioni debbano seguire anche loro un esempio virtuoso, direi. Con la speranza di vedere un po' più spesso questo tipo di collaborazioni, ci salutiamo. Appuntamento a domani.